riva del fiume, a fondo ad ogni passo, roba minaccioso il cielo, il terreno è così caldo, la bellezza profonda che emana il bosco, la luce opaca dell'alba, senza nessun riflesso, gli alberi secolari piegati dal vento, alberi secolari. I miei stivali son bagnati, devo fermarmi se non altro e poi alberi secolari piegati dal vento, alberi secolari piegati dal vento, alberi secolari. Naviga lentamente, un tronco alla deriva, l'acqua è come il liquore, qualcosa scivola via, sputo sulle lenti per pulirle dal fango, prendo la mira lentamente, un nuovo giorno sta iniziando.